Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito, perché ve ne sono di due specie. Vi sono le bugie che hanno le gambe corte e le bugie che hanno il naso lungo. Così diceva la fatina Pinocchio, le bugie hanno le gambe corte, ma a proposito di gambe e di bugie, anche la ricerca dice la sua. Le bugie hanno le gambe corte e portano malanni. L'onestà migliora la salute. A scoprirlo, gli studiosi dell'Università Americana di Notre Dame in Indiana, che hanno spiegato che a un numero inferiore di bugie dette corrisponde un migliore stato di benessere psicologico e fisico. Indipendentemente, spiegano che le bugie non dette siano grandi o piccole e di poco conto. Lo studio, diretto da Anita Kelly, ha visto coinvolti 110 individui. L'esperimento è durato 10 settimane, durante le quali le persone dovevano riportare agli studiosi il numero di frottole, grandi e piccole, eventualmente dette e relazionare sul loro stato di benessere mentale e fisico. Dai risultati raccolti è emerso che, al diminuire delle bugie dette, si riduceva il numero di malesseri psicologici, come tensione e malinconia, e fisici, come mal di testa e mal di gola. Insomma, come le favole, anche la ricerca ha la sua morale. L'onestà premia. Buongiorno e benvenuto al dottor Luigi Ballerini, medico, scrittore e psicoanalista freudiano. Buongiorno. Mentire fa ammalare? Mentire fa male, fa ammalare, sì. Insomma, ce lo dice questa ricerca. Tra l'altro notiamo come dove fa ammalare, mal di testa e mal di gola, che poi è dove si pensano e dove si tirano fuori. Per cui in qualche modo anche l'apparato, gli organi che vengono coinvolti avrà a che fare con questo in qualche modo, no? Però spesso noi mentiamo perché stiamo male. Sì, è proprio così. È giusto anche che noi ribaltiamo la questione. Ecco. Insomma, dire le bugie fa star male. Però se noi dobbiamo ricorrere troppo spesso a delle bugie è segno anche che non stiamo bene, nel senso che abbiamo bisogno di difenderci o di nasconderci o di dare di noi un'immagine diversa, e questo certo non fa parte del benessere della persona. Dottore, sappiamo che ci sono tanti tipi di bugie, le bugie bianche, quelle innocenti, le bugie dette per ragioni un pochino più così nascoste. Sì, non tutte le bugie sono uguali, lo sappiamo. A me piace dire che quelle che vengono genericamente dette, le bugie bianche, sono quelle a cui ricorriamo a volte, anche spesso, per uscire da situazioni in modo elegante. No, insomma, se sono al cellulare con un amico che è un po' insistente, magari dire: mi stanno chiamando! Ho una chiamata sul fisso, hanno suonato. No, allora, proprio per non dirgli: senti, stai esagerando, no? Insomma, queste bugie ci permettono di cavarcelo un pochettino. Diverso è quando uno inizia a mentire su questioni importanti, serie di sé, e soprattutto se lo fa ripetutamente, perché poi ci resta incastrato. Assolutamente. Quindi salutiamoci con un consiglio: se mentite troppo, sappiate che qualcosa non va. Sì, proprio così. Se ci accorgiamo che dobbiamo ricorrere spesso a delle bugie, a dei trucchi, a dei sotterfugi, qualcosa non va. Dobbiamo almeno chiederci perché dobbiamo dare un'immagine così diversa di noi o da cosa ci stiamo difendendo, insomma. Anche perché dire le bugie ci costa. La ricerca dice mente e gola sono, mal di testa e mal di gola sono in agguato, e lei ci ha dato una lettura psicoanalitica di questo. Sì, è faticosissimo mentire. Pensiamo solo, quando uno poi mente tanto e costruisce il cosiddetto castello di menzogne, il panico che arriva la paura di essere smascherato o di contraddirsi, davvero poi impegna una quantità di energie in cui il soggetto davvero poi si ammala ed è già un po' ammalato, insomma. Quindi hanno le gambe corte, dottor Ballerini, e ci fanno fare anche fatica. Una tremenda fatica, sarà perché sono corte. Grazie al dottor Ballerini per essere stato con noi. Buona giornata. A voi, arrivederci. Moi quando noi vediamo una ragazza passeggiare, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinare quello che c'è da capo a piè. Piacciono le gambe lunghe, piacciono quelle un pochino più cortine. A noi non interessa sapere questo, ma ci interessa sapere se le gambe sono sane. La salute è altro che mezza bellezza, tre quarti di bellezza. Buongiorno al professor Agus, che è qui in studio con me, ordinario di chirurgia vascolare dell'Università di Milano e presidente d'onore del Collegio Italiano di Flebolinfologia. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Professore, dobbiamo cercare di mantenere le nostre gambe in gamba. Questa frase, le gambe in gamba, c'entra l'obiettivo, proprio un gioco di parole. Sicuramente bisogna cercare di ripensare anche alla nostra vita, se queste gambe le abbiamo allenate sul lungo periodo, perché è necessario che sin da ragazzi usiamo gli arti inferiori o gambe per sport, danza, tutto quello che le tiene e le fa crescere come delle ottime macchine che sostengono il nostro corpo, perché un nostro corpo è sostenuto da queste, anche durante la gravidanza. Si potrebbe dire, fare una scaletta di caratteristiche che ciascuno di noi dovrebbe pensare per e ripensare, e ripensare, certo, se rientra in queste. Proviamoci. Ma la prima è sicuramente gli anni che ha la persona, ripensare ai propri anni e a quello che c'è stato prima, se c'è stato quell'allenamento di cui ho parlato in primis, cioè in prima cosa. Secondo, il rapporto peso-altezza. È molto importante avere un rapporto peso-altezza ottimale. Ancora possiamo calcolare quale sia la nostra posizione lavorativa preminente, che oggi è diventata purtroppo comune ai più essere quella seduta magari davanti a un computer, certo, come noi stessi siamo in questo momento. E la posizione lavorativa anche per numero di ore, perché si è dilatata, le 8 ore di lavoro di una volta stanno tranquillamente diventando anche 10, 12, 14 se si sta davanti a un computer al giorno. E infine, non ultimo, direi che la sensazione personale, cosa sentiamo delle nostre gambe, noi la recepiamo soprattutto alla fine della giornata. È la sera il momento in cui c'è il red razione, cioè facciamo i conti con le nostre gambe. E quindi 800 24 00 24, potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. I nostri anni dobbiamo raccontare, professore, il rapporto tra peso e altezza, perché se siamo sovrappeso le nostre gambe e anche i nostri piedi faticano di più. Quanto tempo manteniamo una certa posizione, qual è quella caratteristica della nostra giornata? Penso, lei accennava alle persone che stanno ore e ore sedute davanti al computer, sì. Sto pensando invece anche alle commesse, che stanno invece sempre in piedi e desidererebbero mettersi davanti a un computer per dare sollievo alle gambe. È la parola sollievo. Le nostre gambe le sentiamo? Abbiamo bisogno più volte o alla sera di dare sollievo alle nostre gambe, perché avvertiamo quella sensazione che non è presente, non si manifesta solo d'estate con il caldo, ma può comparire anche in inverno. Le nostre case sono molto riscaldate, giusti. Penso ai pannelli di riscaldamento, quelli nel pavimento, che ci riscaldano ma mandano anche calore alle nostre gambe, che spesso non gradiscono. 800 24 00 24, ma prima c'è una domanda che mi ha suggerito il professor Agus e voglio farla a voi, invitandovi a chiamare il nostro numero verde per ricevere a casa uno dei libri della libreria di Essere Benessere. E che cosa lega Leonardo alle vene? Volevamo dire alle gambe, ma ci era sembrato troppo difficile, abbiamo dato un dettaglio in più. Professore, è vero? Sì, è vero. Leonardo, naturalmente Leonardo da Vinci, grande artista e tante altre cose, compreso grande anatomista. 800 24 0024 e ricordate i vostri anni, il vostro peso, la posizione in cui spesso dovete tenere le gambe per lavoro e anche se le vostre gambe si lamentano, quali messaggi vi mandano, se hanno bisogno di attenzioni, di sollievo. Una bella gamba è da ammirare, ma non mi dispiacciono le caviglie robuste. Anzi, posso dire che mi attirano, perché promettono qualcosa di più armonioso, risalendo lungo le gambe. Rappresentano una sorta di mistero insondabile. Le gambe delle donne sono dei compassi che misurano il globo terrestre in tutti i sensi, donandogli il suo equilibrio e la sua armonia. Professor Agus, e per lei invece che cosa sono le gambe? Lei che le gambe le cura, le conosce bene, ne conosce l'anatomia, la fisiologia. Beh, non escludo la bellezza. Sicuramente le gambe, soprattutto nella popolazione europea, ancor più che quella statunitense, per fare un esempio di confronto, sono il target della bellezza della donna. Si sa che negli Stati Uniti si dà più importanza al viso, cosa che diamo anche noi in Europa, ma le gambe sono senz'altro il biglietto da visita, il calling card, come dicono gli americani, di una donna, perché si presenta bene così. Recentemente ho scritto un editoriale per una rivista internazionale anglosassone e citavo appunto una grande stilista, Donna Karan, che ha scritto un libro stupendo, Legs, appunto gambe, in cui lei si preoccupa soprattutto delle gambe, di creare degli abbigliamenti belli ma anche allunganti le gambe, nel senso di far sembrare più lunghe le gambe. Io sono d'accordo con questo, non dimenticando però che, l'ho accennato prima, le gambe sono portanti il nostro corpo, si devono muovere, devono sostenerci, quindi la funzione, la fisiologia sono perlomeno allo stesso livello della bellezza. Lei, professore, ha citato le gambe delle donne, perché quando si dice bellezza si pensa alle gambe delle donne, ma invece quali sono le caratteristiche delle gambe maschili, oltre ai muscoli, se ci sono? Dunque, non c'è dubbio, proprio in copertina di questa rivista che ho citato ci sono gamba maschile e gamba femminile, proprio a dimostrazione, una bellissima immagine della bellezza ovviamente della donna rispetto all'uomo, anche se le gambe dei bronzi di Riace non scherzano. Dunque, perché lì effettivamente la postura elegante dell'uomo, se ce l'ha, e la muscolatura, se l'ha allenata, quindi ritorniamo a quel concetto di tenerle allenate le gambe, fanno le caratteristiche diverse. E certo, possono essere belle anche le gambe di un uomo, quindi tenetele da conto anche voi, perché poi l'occhio cade anche lì, perché arriverà l'estate. 800 24 0024, accavallate, tenute vicine, divaricate, un po' allungate. Il modo in cui, professore, noi teniamo le nostre gambe però manda anche messaggi, e non solo di seduzione, fanno parte del nostro linguaggio del corpo. Ma una ricerca un po' particolare ci dice che è anche una questione di proporzioni, insomma dimmi che gambe hai, quanto lunghe sono e ti dirò come stai. Passano le mode, ma loro sono sempre delle prime donne. Le gambe. Meglio però se lunghe. Lunghe non in senso assoluto, ma rispetto alla figura. Lo ha accertato uno studio dell'Università di Breslavia, in Polonia, dove è emerso che le gambe slanciate rendono più attraente sia un uomo che una donna. Secondo la ricerca, è tutta una questione di proporzioni. Le gambe di una donna di normale statura, circa 1,62 m, per essere perfette dovrebbero misurare un metro, ovvero il 5 o 10% in più rispetto alla misura media delle gambe di donne di quella taglia. Ma non solo. Secondo una ricerca dell'Università Britannica di Bristol, pubblicata sulle pagine del Journal of Epidemiology and Community Health, sembra anche che chi vanta gambe lunghe corra meno rischi per il proprio fegato. L'insolito legame deriva dal livello di 4 enzimi spie della salute del fegato, che si sono rivelati più bassi in soggetti con gambe lunghe. In particolare, più aumenta la lunghezza delle gambe, più diminuisce la concentrazione degli enzimi che danneggiano il fegato. Ricerca curiosa che vogliamo commentare con la dottoressa Maria Giovanna Luini, che è in linea con noi, medico e comunicatore scientifico all'Istituto Europeo di Oncologia. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Insolito questo legame citato che tra il fegato e la lunghezza delle gambe. Ma infatti ho visto la ricerca e ho provato anche ad approfondire. Trovo la notizia un po' curiosa, anche se il campione, cioè il numero di persone analizzate, è molto vasto, quindi sono più di 4.000 donne analizzate e i risultati sembrano credibili. Quindi è vero che questi enzimi, che sono quelli che di solito ci misurano negli esami del sangue, quando il medico ci fa fare gli esami per il fegato, va a vedere questi quattro enzimi, per esempio le transaminasi, è vero che sono più bassi nelle persone che hanno le gambe più lunghe. Quindi, visto che questi enzimi indicano la salute del fegato, enzimi bassi indicano un fegato più sano, allora, secondo la ricerca, chi ha le gambe lunghe ha il fegato tendenzialmente più sano. Ora però vorrei invitare alla cautela, soprattutto perché questi studi indicano sì una media, una tendenza. Certo, non ci dicono che chi ha le gambe più lunghe resta più sano a priori. Con un comportamento alimentare sano, anche chi come me ha le gambe non proprio lunghissime può rimanere sano. Forse perché, e coinvolgo anche il professor Agus, le persone che hanno le gambe lunghe si muovono di più, perché l'attività fisica lei ha sostenuto. No, assolutamente, questa no. Anzi, vorrei poter dire che se è verissimo fare le ricerche epidemiologiche, bisogna tener conto anche a chi le si fa, anche popolazioni, quindi ristrette. E soprattutto mi sa tanto, lo posso dire, che questa news scientifica sia un po' una bugia scientifica dalle gambe corte, perché esistono le bufale scientifiche e un grande studioso della Cochrane International, che è il massimo organo di medicina basata sulle evidenze, Tom Jefferson, ci ha scritto un libro, attenti alle bufale. Attenti alle bufale. Attenti alle bufale. Dottoressa Luini, e quindi? Quindi sono d'accordo col professore, perché in verità in medicina si può tendenzialmente dimostrare quasi qualsiasi cosa. Quindi non voglio togliere validità a uno studio che indubbiamente ha una sua credibilità, poi il fatto che sia stato pubblicato può forse aiutare a comprendere la validità dello studio. Però insomma non mi baserei su questi risultati per concludere che sia più sano, quantomeno nel fegato, chi ha le gambe più lunghe. Dottoressa Luini, la ringraziamo, ma comunque grazie. Aiuta sempre il fegato, il movimento, e qua volevamo arrivare commentando un po' questa ricerca che abbiamo trovato e su cui insomma viene un po' da sorridere per il legame che sottolinea, ma per mandare un messaggio chiaro. Ne abbiamo parlato anche in una puntata in cui abbiamo parlato proprio del fegato, l'attività fisica, muovere le gambe, a proposito di gambe, aiuta sicuramente non solo il tono muscolare delle nostre gambe, ma la salute tutta. Dottoressa Luini. Assolutamente, l'attività fisica dà un contributo in termini di benessere che incide profondamente sulla quantità e qualità della vita. Quindi questo è il messaggio importante anche per il fegato, per la buona salute del fegato. Sapete che il fegato metabolizza un po' tutto quello che noi abbiamo nel circolo sanguigno. Serve muoversi, quindi tanta attività fisica. Grazie, allora via di gambette. Grazie alla dottoressa Luini. Buongiorno, arrivederci. Abbiamo Michela dalla provincia di Verbania. Buongiorno Michela. Buongiorno. Siamo qua. Bene, sì, io ho una domanda e credo che in questo momento ci sia come ospite la persona giusta che può rispondermi. Io da sempre faccio la doccia freddissima. La faccio iniziando dai piedi, ovviamente, salendo su dal palmo delle mani e poi tutto fino a capelli, tutto. Mi piace tantissimo, so che fa bene alla circolazione, ma qualcuno mi dice che poi così bene non fa fare la doccia fredda. Vorrei sapere se è vero o meno. Grazie Michela, doccia fredda da brivido, professor Agus, la circolazione ci guadagna? Ci guadagna e la signora che ha telefonato l'ha descritta molto bene. Forse si potrebbe aggiungere un particolare che va anche alternata con un po' di caldina di acqua, nel senso che però il freddo vasocostrittore è tonificante i nostri vasi sanguigni, facilita il ritorno. Poi lei l'ha descritto anche molto bene dal centripeto, l'esercizio del getto dell'acqua, dal basso verso l'alto, quindi sicuramente il massimo sarebbe appunto anche però dare un ristoro di temperatura non calda, quelle vasche fumanti no, assolutamente no, quell'acqua a getto bollente no, però un'acqua calda, tiepida, l'alternanza che si chiama in varie maniere, doccia scozzese, si chiama il trattamento alla Kneipp dal nome di un abate della Bassa Baviera dell'Ottocento, ma che tuttora viene utilizzata soprattutto in paesi di lingua tedesca come un esercizio molto utile alla circolazione. Guardatevi, sicuramente non avete bisogno di farlo perché le nostre gambe le conosciamo, ma osservate, portate la vostra attenzione sulle vostre gambe, se sono presenti delle piccole dei segni di capillari, delle reti, professore, che sono presenti soprattutto intorno nella zona delle caviglie. Parliamo anche del tono delle nostre gambe, che è essenziale per la loro salute. Il professor Agus ci ha invitato a raccontare le nostre gambe per dire quanto pesiamo, come le muoviamo. 800 24 00 24 e ricordate che cosa lega Leonardo alle vene. Essere e benessere. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Comincia a muoverti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Oh yeah. Anche noi dobbiamo imparare a muovere di più le nostre gambe. Professor Agus, se stiamo a lungo seduti, lo diciamo sempre, ma lo ripetiamo con grande piacere, alziamoci, facciamo quattro passi, perché qualcosa dentro le nostre gambe succede a quel punto ed è qualcosa che porta loro benessere. E sostanzialmente, a parte la muscolatura di cui si è già parlato e si parlerà ancora chiaramente, il sistema vascolare, che sia delle vene o dei vasi linfatici, anche questi non dimentichiamoli, perché anche la linfa è uno spazzino di sostanze che devono essere eliminate dai nostri arti, funziona tramite un sistema di micropompe che sono nella circolazione degli arti inferiori, nelle vene, nei linfatici, con addirittura un sistema valvolare che permette la unidirezionalità del sangue o della linfa verso l'alto. Quindi nel movimento le pompe pompano, se siamo fermi non pompano. Ecco, quindi mettiamole in funzione. Barbara, buongiorno, da Verona, 800 24 0024, benvenuta. Buongiorno. Ascolti, io volevo formulare questa domanda. Io sono alta 1,73 m, ho circa 1,10 m di gambe, nessun problema particolare. L'unica cosa che volevo sapere è se c'è qualche sport, qualche attività sportiva che tende ad affusolare un pochino la coscia rispetto ad altri, per cui non so, a me piace molto camminare abbastanza velocemente, io ho una cicletta ellittica in casa. Mm-hmm. Tipo quelle che ci sono in palestra, sì. E voglio sapere se, non so, rollerblade o la bicicletta o il pattinaggio su ghiaccio siano degli sport che facilitano questo oppure robustiscono di più la coscia, e se c'è qualche cibo, sì, che comunque insomma, diciamo, per sfilare un po' la coscia, che immagino però la sua sia già perfetta, perché con tutto lo sport che fa ha uno stacco di gambe considerevole, alto 1,73. Non vorrei coinvolgere il professor Agus in questa, però professore, no, io faccio i complimenti per la chiarezza dell'esposizione del problema per altre persone, suppongo. Comunque alla persona che già fa questo direi di insistere su queste idee che ha e su questa attività fisica che ha. Sulla coscia forse non va dimenticato che nel camminare in discesa, mm-hmm, si ha un particolare allenamento dei muscoli della coscia che sono completamente diversi del camminare in piano o in salita, che lavorano soprattutto sui muscoli della gamba, cioè i gemelli ad esempio. Ma non va dimenticato che se si vuole tono ai muscoli della coscia forse ci vogliono mani altrui, di una massaggiatrice, di un massaggiatore che sappia apportare questa tonicità. In linea con noi abbiamo Simone Diamantini, preparatore atletico della squadra nazionale di sci di fondo e allenatore di triathlon. Ciao Simone. Buongiorno a tutti. Allora, c'è chi vuole sfilare la coscia, chi ha paura di avere il polpaccio troppo piccolo e si danna con mille esercizi, chi teme l'effetto contrario, cioè di fare attività fisica e di ritrovarsi con un polpaccio troppo definito. Allora, abbiamo bisogno di qualche consiglio da te, Simone. Ma più che consigli, innanzitutto un chiarimento, nel senso, come diceva il dottore poco prima, sicuramente le gambe dipendono anche molto da fattori genetici, quindi la struttura muscolare dipende un po' da com'è la nostra ingegneria del cervello, quindi da come camminiamo e da come usiamo i piedi piuttosto che le cosce. Sì. Sicuramente, come diceva l'ascoltatrice prima, se vogliamo diminuire o comunque mantenere un tono delle cosce adeguato ma non eccessivo, sicuramente il pattinaggio piuttosto che il pattinaggio su ghiaccio invece tonificano molto i glutei e le cosce, a danno invece magari del polpaccio, perché comunque è chiuso nella scarpetta e quindi lavora poco. Sì, però per citare anche attività più comuni, perché il pattinaggio è uno sport magnifico, però non è così alla portata di tutti, purtroppo, certo. Perché è uno sport magnifico. Alternative al pattinaggio, Simone? Allora, se vogliamo come dire, snellire tra virgolette la gamba, la cosa migliore è sicuramente il cammino o la cyclette, fatta più con un rapporto molto agile che con un rapporto, quindi con un'intensità muscolare molto molto impegnativa, perché con un rapporto agile il movimento è frequente, c'è un maggiore richiamo anche dell'aspetto circolatorio, come diceva il dottore precedentemente, ma nello stesso tempo non chiediamo al muscolo grossi interventi di forza, quindi non ipertrofizziamo il muscolo in modo eccessivo. Se invece vogliamo aumentare la massa muscolare, allora diciamo che tutte quelle discipline, parlo dal punto di vista aerobico, quindi la cyclette potrebbe essere utile, ma con un rapporto un po' più intenso, quindi con una frequenza di pedalata più dura, quindi intorno alle 80 pedalate al minuto. Sulla macchina da palestra c'è scritto RPM, che vuol dire proprio quel valore, oppure attraverso lo step, attraverso la corsa a piedi, però comunque diciamo attività che coinvolgano per lungo tempo il muscolo. Io non credo moltissimo nel lavoro muscolare se non dopo un adattamento. Non è che domani noi andiamo in palestra e ci mettiamo a lavorare con i pesi solo perché vogliamo ingrossare la muscolatura. Prima bisogna adattarla, e io credo che per adattarla bisogna prima fare un buon lavoro cardiovascolare, e dopo possiamo eventualmente migliorare l'aspetto muscolare ed eventualmente cercare di colmare o ridurre quei deficit muscolari o visivi che riteniamo dover fare. Grazie a Simone Diamantini per essere stato con noi. Buonissima giornata. Ciao. Riccardo, dalla provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Le muove le gambe lei bene, tanto? È un sedentario abbastanza. O uno sportivo? No, sono uno sportivo, sì. Vedi. Sono uno sportivo, vado via in bici da corsa, a livello amatoriale. Sì, vabbè, però, però va. Mi dica, Riccardo. No, niente, mi sono accorto, io ho 55 anni, mi sono accorto, saranno 2-3 anni a questa parte, che sulla gamba destra si notano delle vene che prima non vedevo, sono più in superficie, sì. Sulla caviglia e sul polpaccio. Sulla parte sinistra invece non noto nulla proprio. Professore, le vene che si vedono, un tema che è una domanda molto ricorrente anche al 349-238-6666, sono in superficie, si possono toccare, mi scrive addirittura certo. Un'ascoltatrice. Come bisogna osservarle? C'è da che segno ci danno? E la domanda dell'ascoltatore del Padovano è spiazzante, perché sarebbe stato logico che le avesse sviluppate bilateralmente, dato che è un ciclista di un certo livello amatoriale, ma suppongo che faccia macini molti chilometri. In questo caso il vedersi delle vene sviluppate, ipertrofiche noi diciamo, è anche positivo, perché più sangue arriva per nutrire i muscoli, altrettanto sangue se ne deve andare dagli arti, dalle gambe. Però egli parla solamente di un arto, allora questo sposta il problema di una normalità fisiologica dell'ipertrofia a una possibilità di patologia, perché non è spiegabile che solo un arto abbia delle vene sporgenti. In questo caso deve indagare nella familiarità, madre, padre, nonni, perché si può saltare una generazione, che non ci sia appunto una qualche tipo di patologia, anche magari modesta, di dilatazione di vene. Ripeto, la bilateralità avrebbe fatto pensare a una normalità nel suo caso. La monolateralità delle vene fa pensare a qualcosa che in quell'arto specificatamente ristagni il sangue. Quindi si fa un controllo attraverso quale esame, professor Agus? Fondamentalmente bisogna sempre partire dalla domanda alla persona stessa, non la chiamo nemmeno paziente, cioè ha fastidi, da quando le ha viste, quindi l'anamnesi per noi. Secondo, la visita, l'ispezione, la palpazione, toccare, e poi, e questo credo che tutti lo conoscano, l'esame Doppler o eco Doppler, che studia il movimento del sangue nella giusta direzione, se ci sono reflussi. Il reflusso vuol dire sangue che torna indietro invece che andare in senso unico in alto. Ebbene, un Doppler si può fare anche semplicemente in uno studio biomedico. Quindi ricordiamo, se le vene sono presenti e le possiamo vedere, ma in tutte e due le gambe, molto probabilmente, e se la persona è attiva. Tutto regolare. Sì, ma se sono su un su una gamba, qualcosa non parlatene. Va. Abbiamo parlato di gambe in movimento, ma a volte le nostre gambe sembrano addormentarsi, professor Agus. Le sentiamo intanto, specie quando stiamo seduti a lungo, sentiamo quel formicolio che ci produce una sorta di insensibilità, tanto che alcuni lo dicono ad esempio gli spilli. Sì. E bisogna camminare e sbattere un po' il piede per terra per un po' risvegliare e far ritornare la sensibilità. È un difetto di circolazione? Non del tutto, è giustissimo usare il termine formicolio, spilli, eccetera. Altri potrebbero dire prurito, soprattutto sì. Gli uomini che hanno più, gli uomini con stasi venosa sono più caratterizzati delle donne dal sintomo prurito. Però può essere la circolazione stagnante, ma quello sbattere dei piedi non è indicativo di cattiva circolazione, ma di disturbi nevritici, cioè della innervazione dell'arto. E allora abbiamo proprio bisogno di cambiare la posizione dell'arto, sia di giorno oppure anche a letto la notte, per far sì che il nervo, come qualcuno dice nervo accavallato, che evidentemente sì. È un popolarismo, ecco, un modo popolare di dirlo, però questo fa pensare più a un disturbo nevritico, che non è strano perché le nevriti sono frequenti. Basti certo. Pensare il collegamento che i nervi hanno alla colonna vertebrale, un po' artrosica, un po' scoliotica, un po'... C'è un momento della giornata in cui spesso sottoponiamo le nostre gambe, pur lasciandole ferme, a un piccolo stress, ed è quando, ad esempio, stesi a vedere la TV, mettiamo le gambe appoggiate su uno sgabello, su un puff, su una sedia che abbiamo lì davanti. 800 24 00 24. Se anche voi guardate la TV e allungate le gambe, pensate a come le tenete. Essere e benessere. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di gambe, a volte si lamentano, a volte si lamentano di gamba buona, professor Agus, perché noi le sottoponiamo a delle piccole torture. Prima delle informazioni sul traffico, dicevamo, tante persone si riposano guardando la TV con le gambe distese, perché alla sera le gambe vogliono stare in pace, ma è proprio lì. Vero, professore, che spesso per dare sollievo alle nostre gambe si finisce col metterle in crisi? Perché? Posizioni così innaturali, vorrei dire, perché si tende troppo come un arco la nostra gamba, quindi stirando sia vene sia i nervi. Quindi essere comodi, certamente bisogna riportare la gamba alla sua sottigliezza, dato che l'arco della giornata magari ce l'ha gonfiata un po', e non ne farei una tragedia di un gonfiore serale o vespertino, come noi diciamo. Però per sgonfiarla, lo stile di vita americano delle gambe sul tavolo, delle gambe su un puff, su una va bene, a patto che sia semiflesso l'arto, e questo per non mettere in tensione proprio quel fascio vascolo nervoso, cioè vasi e nervi, che sta dietro il ginocchio. 800 24 00 24, ricordate che cosa lega Leonardo alle vene. Professor Agus, abbiamo degli ascoltatori che sono in linea con noi. Abbiamo Rosetta che ci chiama dalla provincia di Pavia. Buongiorno. Buongiorno. Io vorrei rivolgere una domanda al professore. Sì. Dunque, io la notte, quando mi corico e sono nella posizione un po' fetale, sì. Mi fa male e sento dei dolori alla parte esterna della gamba sinistra, sotto la, quella sotto, sotto il ginocchio, sì, inferiore. Vorrei sapere il motivo, il perché, cosa devo fare eventualmente. Perché questa gamba si lamenta, professor Agus? Esatto. Beh, la sera un momento a letto, il letto è un momento un po' delicato. Delicatissimo, se basti pensare che Shakespeare dopo l'essere o non essere parlava dormire, dormire, sognare forse, e qui è l'inciampo, dice così, è l'inciampo, perché effettivamente c'è tutta una patologia o disturbi legati al sonno o al cercare il sonno. Ma per quanto riguarda adesso le gambe, non la, il remo o altro per dire, la signora sì, probabilmente ha, si è abituata a una posizione forzosa. Non che la posizione fetale sia sbagliata, credo che quasi tutti passino una buona parte del riposo a letto in questa posizione, ma probabilmente c'è un sovraccarico per cui viene o disturbato il muscolo gemello come schiacciato, o ritorno a quel discorso dei nervi, che non li dobbiamo dimenticare, che è come stirato il nervo. Dovrebbe abituarsi a cambiare posizione sostanzialmente. Niente di più. Le nostre gambe a volte formicolano, sentiamo un po' come delle punturine, ma alle nostre gambe in realtà gli aghi piacciono. In linea con noi abbiamo il dottor Marco Maiola, libero professionista all'Humanitas, medico agopuntore e docente di agopuntura alla scuola Sowen di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io ho detto alle gambe piacciono gli aghi. Aghi, naturalmente, mi riferivo all'agopuntura, perché ci sono dei trattamenti che possono dare sollievo a tanti disturbi che, delle nostre gambe. Ma assolutamente. Sicuramente nelle gambe noi abbiamo, per esempio, il meridiano di fegato, che è un meridiano che ha importanti relazioni sia con l'aspetto circolatorio, quindi di vascolarizzazione, sia con l'aspetto di contrattilità muscolare. Oltretutto i due aspetti sono correlati sia nelle patologie che anche nella persona sana. Dottore, l'agopuntura, naturalmente noi non possiamo metterci gli aghi da soli, deve essere un medico esperto di agopuntura che ci mette gli aghi nei punti precisi, ma dalla medicina cinese noi abbiamo un trattamento che possiamo fare anche a casa e che viene suggerito anche per la soluzione o la prevenzione di disturbi molto frequenti, come sono ad esempio, a proposito di gambe, di sport, i crampi degli sportivi. Assolutamente sì, è corretto. Questo trattamento si chiama MOXA e consiste nell'utilizzo, anziché dell'ago, che come dice giustamente lei è un atto medico, di un sigaro, esattamente come fosse una sigaretta, ma più grossa, è fatto di artemisia, che è un rimedio fitoterapico molto utile a questo proposito. Sì. E questa stimolazione di questi punti, come per esempio quello del 3 del fegato sul dorso del piede o del 34 vescicabiliare a livello del perone sotto il ginocchio, sono due ottimi punti per stimolare la muscolatura e per prevenire il discorso dei crampi che faceva lei, ma noi lo usiamo molto anche per la preparazione agli eventi sportivi, quindi negli sportivi. Per dare un po' di calore, esatto, vero? Dare colore, ma dare anche un po' di carica energetica in prossimità dell'evento sportivo. Quindi previene, ma anche ricarica. Sigari di artemisia, sì, si acquistano nelle erboristerie, no, sono sigari ma non bruciano e non si fumano, ma danno calore. No, assolutamente non si fumano, è sconsigliabile. Assolutamente. Dottor Maiola, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Giovanna ci chiama da Monza, buongiorno Giovanna. Buongiorno signora Nicoletta, complimenti per la trasmissione. Grazie, faccio un piccolo inciso, perché io ho detto ci sono i riscaldamenti, so che lei vuole rispondere per Leonardo e so che è molto vicina, anzi forse ha proprio la soluzione. Volevo aprire un 30 secondi per dire agli ascoltatori che chiedevano il pavimento, il riscaldamento. I riscaldamenti di un tempo, quelli che erano a soffitto e che quindi risulta pavimento per chi ci sta sopra, avevano l'inconveniente di far arrivare il caldo da sotto i piedi, professore? Sì, in sintesi praticamente parliamo degli anni 50, riscaldamenti degli anni 50 fino ai primi anni 60 erano e sono purtroppo ancora così nocivi, ma l'attuale tecnologia... Siamo assolutamente tranquilli. Mi scusi Giovanna, ma volevo fare questa puntualizzazione. A raccontarci che cosa lega Leonardo alla vena. 30 secondi. 30 secondi, e allora Leonardo, gli studi anatomici di Leonardo sono abbastanza noti, ma la cosa che più affascina è come ha paragonato la vita che pulsa nella natura tutta alle vene del corpo umano. Eccezionale. E quindi? Come dire... E tanto che c'è una vena che si chiama vena di Leonardo, che ha una collocazione, Giovanna l'ha indovinata, sì, precisa. Giovanna, sì, ci stiamo. Ma di più, perché se è vero che c'è la vena di Leonardo parallela alla safena, molto conosciuta, in realtà lei ha descritto il corpo umano che è riprodotto in tutto un sistema fluviale di che canali. I canali di Navigli di Milano sono tutto un sistema circolatorio. Grazie al professor Agus e a voi, a domani, buonissima giornata. Essere e benessere.